volta. Buonasera amici di Radio Alma, la tela sonora, oggi 6 marzo, puntata speciale off, perché questa sera abbiamo con noi Cristiano Ferrarese e domani presenterà il suo libro Trilogia dei Matti alla Foire Off insieme al Club del Libro e a Piola Libri. Ciao Cristiano. Ciao. Buonasera. Come Giulietta, Giulietta Lacchi che la scorsa volta era all'estero impegnata in missione, quindi non era con noi qua alla tela sonora, e poi abbiamo un'amica Martina che ha deciso di non apparire, di non far ascoltare la propria voce, ma comunque qua con noi e ci sta registrando e sta prendendo foto, quindi pubblicheremo le foto sul blog. Dicevo, puntata d'eccezione perché oltre a Cristiano Ferrarese con noi qua in regia, avremo Antonio Bertoli in diretta e Matteo Fantuzzi. Quindi non c'è tempo da perdere, cari amici, sarà una puntata speciale e speriamo che vi possiate divertire. Soprattutto sarà un incipit per così invogliarvi domani ad andare ad ascoltare Cristiano Ferrarese alla Far Off. Ma Giulietta, mi vuoi dire qualcosa? No. Vuoi dire dove è la Fiera Off? Sì, insomma, la Fiera Off è a 300 metri dalla Fiera In. Fatto apposta questo giochino in off, perché come voi sapete la Fiera Off è stata organizzata da un gruppo di poeti, scrittori, editori. Soprattutto editori, che hanno sentito l'esigenza di dare voce a poeti, scrittori, giornalisti, quindi tutti coloro che fanno uso della penna e delle parole, e soprattutto che hanno un campo d'azione inferiore, quindi non sono appoggiati dai grandi numeri, dai grossi, dalle grosse case editrici, ma quindi dare voce un po' a tutti, soprattutto alle voci, alle persone, alle penne nuove. Quindi è una grande occasione, il secondo anno, la seconda edizione, quasi terza perché c'era stata una prima così sommossa nel 2007, quindi 2008 grande processione del libro e Far Off, quest'anno la seconda edizione. Io direi, Cristiano, domanda così bruciapelo, perché hai deciso di partecipare a Radio Alma e alla Far Off? Perché mi piace Radio Alma e mi piace la Far Off, sono stato invitato, sono contento di essere venuto, ho conosciuto della bella gente. Wow. E quindi sono qua pronto a rispondere. Pronto a rispondere alle domande o a quelle? Al silenzio, ordini. Rispondiamo agli ordini. Allora, cari amici, voi dovete sapere che avere Cristiano Ferrarese qua in radio è stata una grande, come dire, c'è stata tutta una grande preparazione, perché sono mesi che noi ci conosciamo via email, giusto? Sì, ci siamo conosciuti fisicamente ieri, vocalmente l'altro, no, ieri mattina lo stesso, ieri mattina. Però via email ci conosciamo da circa 9 mesi, sì, 10 mesi. È nato, perché un vero parto. Sì, sì, infatti, è nato un brutto bambino, però no. Dai, facciamo quello che possiamo. No. Senti, allora, io direi di iniziare subito con il tuo libro, con questa lettura che tu farai del primo capitolo, introduzione, che vorrei dire magari anche come si intitola il tuo libro, perché ce ne sono due. Uh-huh. Trilogia dei matti, poi c'è un po' un gioco di cifre, di numeri, 1967-1976. Sì, e chiuderà con 1985, tra un paio di mesi si andrà a chiudere la trilogia. La trilogia. Allora, io ti lascio i microfoni, così magari ci racconti un attimino il motivo anche che ti ha spinto a scrivere un libro così particolare, perché come voi potete capire, cari amici radioascoltatori, qui si parla di pazzia, non soltanto di pazzia, ma anche di tutta quella parte così di massa, di persone, di reietti che vengono lasciati allo sbando, ma che poi forse matti non sono, perché i veri matti sono quelli fuori, non quelli dentro, giusto Cristiano? Sì, anche perché questi qua nel tempo sono fuori e sono dentro, quindi Perfetto. Hanno attraversato. Quindi tutto quello anche correlato alla sensazione di spazio e tempo, no? Si dice sempre che il tempo non esista e chissà che proprio non sia vero, che sia soltanto uno specchio del nostro fare, del nostro pensiero. Uh-huh. Allora, io ti lascerei così quindi i microfoni, così poi magari Giulietta, che è una grande attrice, perché canta Giulietta, non lo vuol dire, ma io lo so e lo dico. Tanto non c'è bisogno di dire niente. Va bene, dai, forza, leggiamo. Gentilissimo, Signore chiamato Gesù. Scrivo dall'inferno, stanza numero 2, bianca e fredda. Ovunque fetore di urina che mi soffoca alla compagnia di una ventina di dementi. I giorni passati sono stati impossibili, non riuscivo ad alzarmi dal letto, non respiravo e non mi muovevo. Ora provo a scriverle mentre mi è davanti, mi guarda, mi fissa e mi spaventa, mentre attorno a me c'è solo un silenzio malato, qualche urla e molta aria puzzolente. Ci liberiamo così. E poi torniamo placidi e indifesi alle catene del quotidiano. Non posso svegliare nessuno. Nessuno deve sapere che sono sveglio, perché potrebbe succedere ancora. Ti prendono e ti gettano nella cella di sicurezza, pane e acqua, ti caghi e ti pisci addosso. Ho pianto e ho pregato, ma non sapevo chi. Vedevo la morte, ma non capivo quando. E come. Questo è forse l'inferno, io ne voglio scrivere. Sono un pazzo e mi sono incatenato al sottosuolo della dignità. Devo sopravvivere, ma ora mi fermo. Qualcuno sta arrivando. Sta arrivando. 27 febbraio. Febbraio 1967. 1967. Bene. Direi che l'illusione, comunque, alle parole e anche al modo in cui è stato letto questo brano, questa introduzione, ci fanno un po' così, ci fanno riflettere e ci obbligano a pensare a quella che è la condizione delle persone quando sono rinchiuse e sono considerate pazze. Considerate, dico, perché anch'io ho questa vana, forse a volte chiara idea che i veri pazzi non siano quelli che sono dentro ai manicomi, ma sono a volte proprio quelli fuori, ai quali lasciamo in mano la gestione di tutto, della nostra vita, i nostri soldi, i nostri valori, le nostre famiglie e i figli che vanno a scuola. Allora, come reagire quindi? Perché voi sapete che la tela sonora è sempre un'idea di Anna Maria Farabi consacrata alla poesia, però io mi sono sentita in obbligo di chiamare Cristiano a partecipare alla tela, perché leggendo il suo libro ho constatato che i brani, nonostante fossero scritti in prosa, risuonano un po' come una voce poetica, perché comunque non è da tutti riuscire a parlare di pazzia e cercare di esprimere quindi i sentimenti di queste persone, ed è una poesia, perché è un'invocazione, un grido, un'invocazione a essere quindi aiutato, a essere considerato e a essere anche rispettato. Chissà perché trilogia, perché io vedo nella copertina che c'è un omino che è su un pampano, ci sono dei numeri e gioca e salta. Il pampano cosa rappresenta? Rappresenta l'entrata del gioco, il fatto di voler giocare, di far finta di giocare quando si è rinchiusi, quando si è costretti a vivere quindi senza libertà. Che cosa rappresenta? Perché un pampano? Allora, io vorrei cominciare dall'idea di trilogia dei matti che mi è stata affibbiata. Non è la trilogia dei matti, ma la trilogia del matto. Perché il matto è sempre uno, e comunque sia, pur essendo i tre libri conseguenti, sono autonomi, e solo alla fine si scoprirà determinate cose. Il pampano, sono d'accordo su quello che hai detto tu sul fatto del tempo. I matti sono, pur io non avendo nessuna pretesa di spiegare la follia, anche perché credo che la follia la si vive e quindi non la si può spiegare, quindi automaticamente si viene visti come matti. Dalle fasi di follia più tranquilla, che sono i modi di essere strani, fino alla follia conclamata di paranoia, eccetera, vivono in un tempo assolutamente presente, e quindi uccidono l'idea di tempo cronologico, quindi Cronos, e vivono nel tempo Aion, cioè l'eterno presente. Porlo nel 1967, nel 76, nell'85, al di là del fatto che 67 e 76 vengono prima del 68 e del 77, mi permetteva di poter usare la figura del pazzo che accetta la sua condizione di pazzo, sia ben chiaro, perché questi non hanno nessuna voglia di passare come pazzi che vengono pietosamente pianti come poverini, è gente che uccide, che non si sa se uccide, non si sa se esiste, eccetera, ma porti avanti alcuni discorsi sull'Italia di quel periodo. E fondamentalmente era questo il mio, pur riconoscendo che molto probabilmente sono riuscito a creare una situazione abbastanza sospesa nel tempo, per cui, ed è la cosa fondamentale, chi legge non sa cosa legge e soprattutto non si ferma nel leggere, cioè, che è il principio della lettura, anche perché è molto semplice cadere nel retorico e nel facile con questi temi qua. Credo, spero di non esserci caduto. Il Pampano, questi entrano, è l'entrata del mondo altro, infatti se guardi la copertina è tutta buia e c'è lui che guarda avanti, ma guarda avanti, non sta guardando, è dentro se stesso e guarda un avanti che è sempre se stesso. Ho capito. Vuoi leggere un altro pezzo, magari dell'altro libro? Io leggerei L'Incipit di 1976, dove il personaggio principale è la sorella di questo C di cui si parla nel primo. D'accordo. Potete chiamarmi Vu. Ogni volta mi addormento e riposo. Mi sveglio all'improvviso e devo raccontare, ma non c'è nessuno. Nessuno. Chiamo il vecchio che arriva. Lui spinge la mia carrozzina e arriviamo qui in un hangar. Io scrivo e lui aspetta senza nessuna fretta. La mia mano crea delle parole che poco a poco prendono forma. I denti sanguinano e mi fanno male, ai, ai, ai. Non riesco a tamponare l'emorragia di sangue, le mie gengive sono molle. Le mie dita affondano nella carne sanguinolenta, sputo per terra, catarro misto a sangue. Poi cadono i denti, la carne si deforma e io mi sto decomponendo. Scrivo con tale foga che le mie mani sanguinano, ma non mi fermo. Getto a terra il pennarello e uso le dita, il sangue. Le parole nascono stilizzate ma confuse. Piango per il dolore e tremo. Qualche volta mi accompagno con la voce, qualche volta urlo e poi taccio, poi chiamo il vecchio. Vieni, devo uscire, mi sento sporca. Aiuto, aiuto. Si perde la mia voce nel vuoto dello spazio immenso. L'uomo risponde immediatamente alle mie urla, mi prende le mani e le nasconde dentro il suo cappotto. Chiudo gli occhi e non dico più nulla, mi adagio e a poco mi addormento. L'uomo muove la carrozzina attraverso lo spazio dell'hangar, usciamo, il sole batte, ma io non voglio aprire gli occhi. È l'inverno del 1976. Chiaro. Chiarissimo. E coinciso. Senti, io direi, se tu sei d'accordo, nel momento che abbiamo altri due ospiti, abbiamo la diretta, Matteo Fantuzzi e Antonio Bertoli, di esplorare anche con loro un po' la pazzia, perché comunque entrambi hanno fatto esercizio della parola e uso della penna proprio per parlare anche di pazzia. Antonio Bertoli si è addentrato un po' nel territorio del cuore, e poi con la conoscenza con Jodorowsky, il teatro panico, e Matteo Fantuzzi comunque con la sua, così, con il suo modo di scrivere, è un ragazzo che anche lui potrà in qualche modo magari anche farti una domanda. Quindi se siete d'accordo, e se Paola, che ringraziamo con tanto affetto. Prego, grazie cara, grazie a lei. Dovete sapere che la tela sonora sta sopravvivendo perché si occupa della regia, quindi sono quelle persone discrete che non si fanno mai sentire, ma che se non ci fossero la tela sonora non esisterebbe. Grazie. Senti Paola, che dici, mandiamo un po' di musica così io riesco a chiamare Matteo e poi intervistiamo Matteo? Ok, sì. Vuoi dire anche che un pezzo ci metterai, il gruppo? Cosa abbiamo deciso? Lucio Pacifico o sempre Ferris Loris? No, metteremo un pezzo di Martiria. Ah, benissimo, Martiria, perfetto. The Eternal Soul, Martiria 2004, ok. Ci sentiamo fra un po', amici. Restate con noi. Thank you. ascoltatori, benvenuti di nuovo a Radio Alma, la tela sonora. La tela sonora con grinta questa sera. Sì, questa sera siamo arrabbiati. Matteo, ci sei? Ma ti sento. Dove ci chiami? Dall'inferno? Dove sei? Sono al cellulare nel bel mezzo dell'Italia, quindi... Come sì. Sempre creiamo collegamenti, ponte. Ah, certo. Il network continua anche on the air. Senti un po', caro Matthew, ci vuoi raccontare brevemente di te, perché sei in diretta? Poi con noi qua in sala oggi abbiamo in radio, abbiamo Cristiano Ferrarese, ci siamo addentrati un po' nella pazzia, cercare di spiegare o di lasciarci così i nostri personali, così le nostre personali riflessioni sul concetto di pazzia. Raccontaci un po' tu invece come affronti la pazzia, soprattutto in Italia in questo periodo. In Italia di pazzia in questo momento ce n'è parecchia, quindi l'affronto decisamente bene. E la poesia, che è il motivo per cui ogni tanto ci sentiamo, credo che sia proprio un luogo ideale, non so se la tua ospite è d'accordo con me, un luogo ideale per ventilare, diciamo, la follia. Il mio ospite ci teneva Cristiano, è un uomo. Sì, il tuo ospite, scusa. No, così tanto per permetterti, per connetterti. E senti tu che tipo di poesia scrivi, così poi magari facciamo una domanda a Cristiano e facciamo una domanda anche la a te. La mia poesia parla sostanzialmente del contemporaneo e della precarietà delle nuove generazioni, che non è solamente una precarietà in termini lavorativi, anche se questa è una materia che oggi in Italia è assolutamente molto considerata, ma parla anche di tutta la precarietà del sistema delle nuove generazioni, quindi dal punto di vista affettivo, dal punto di vista sociale, anche in questo caso ci si lega molto alla follia che c'è nel interagire con le cose, quindi quella che può essere la mania degli acquisti, la mania di esserci, la mania di per forza dover apparire in un certo modo, e quando questo non accade si creano tutta una serie di problematiche che poi sono la quotidianità, insomma. La follia del superfluo. Esatto. E quindi? Esattamente. E quindi la poesia? Quindi... La poesia, come perché scrivere poesia? Perché se vogliamo è un atto rivoluzionario la poesia, ideata così, no? Andare un po' contro... No, ribellia, di ribellione, la rivoluzione non vuol dire altro che mettere un posto al posto di un altro, cioè la ribellione invece continua. Albert Camus. Senti, ma Matthew, la tua rivoluzione allora, o la tua ribellione? La mia ribellione, per usare questo termine, è l'espressione che io utilizzo, il mezzo poetico, lo strumento poetico per esprimermi, però perché mi viene più facile questo, se io fossi, diciamo, capace di fare un disegno decente, probabilmente mi darei più all'arte figurativa, invece mi sono spostato su questo, insomma. Che cosa hai scritto ultimamente? Una poesia? Ultimamente, ultimamente sto, oltre a Cobarid, oltre al mio libro, sto lavorando molto sul prossimo, che sarà sulla strada alla stazione di Bologna, anche se su di quello sostanzialmente non esistono ancora testi, perché buona parte del mio lavoro è proprio sulle fonti in questo momento, quindi ancora, diciamo, sfrutto molto l'onda lunga che ha avuto Cobarid, però ho proprio un testo sulla follia in Cobarid. Ce lo leggi? Ce lo leggi? Devo prendere gli antipsicotici, è quello che ha detto una storia alla clinica. I motivi già li conoscete, ho reazioni scomposte, di attacchi di panico. Alle volte mi pare qualcuno mi fissi sull'autobus, è a quel punto che cerco di sfondare il vetro scappando per strada. fingo d'essere un terrorista due volte ogni anno. Minaccio l'autista con un tagliaunghie. Gli dico di portarmi in piazza dei Servi. Lui ormai ne è presente, è lo stesso da anni. In fretta mi lascia nel luogo richiesto. Chiedo scusa alla gente sul mezzo e riparto, ridendo. Bella. Senti, lei che mi ci hai fatto pensare che ogni tanto mi guardano sull'autobus? Sarò matta anch'io? Chiedete il motivo. È vero, i capelli forse, il colore dei capelli, sempre discomposti, disordinati. Oppure i vestiti, le scarpe, perché devi sapere che io vado in giro con un paio di scarpe. Ve le ricordate, le vecchie Tommasoni? Aspettate che c'è. Aspettate che... Cinnamon. Aspettate c'è. En concert à l'Espace di Ai. Pubblicità per le scarpe. Stai facendo la pubblicità alle scarpe? Il 19 a 21h45. La Maison di Culture di Saint-Gilles, entrée gratuite. Info www.radioalma.be. Cinnamon en concert à l'Espace d'IAI. Samedi 7 mars 2009 à 21h45. Maison des Cultures de Saint-Gilles, entrée gratuite. Info www.radioalma.be. Bene, cari amici radioascoltatori, volevo parlarvi del mio Tommasoni, invece abbiamo parlato del concerto Espace d'IAI. Bene, ritorniamo su questo argomento. Matteo, sei sempre con noi? Sì, sono con voi. Bene, ciao. Non potevamo fare altrimenti perché c'è un concerto domani, quindi era un po' invogliare i nostri amici radioascoltatori a partecipare. Ritorniamo sulle Tommasoni. Devi sapere che io ho un vecchio paio di scarpe Tommasoni. Vi ricordate quelle scarpe per andare per far vela? Che erano di moda 20 anni fa, 30 anni fa. Sono sempre lì. E quando torno a casa, in Italia, mi metto quelle perché ci cammino bene. Beh, io salgo sull'autobus, credo ormai di essere l'unica che ancora abbia queste scarpe, perché tutte le hanno sostituite, no? Con le Hogan, le Tots, e vedo che la gente, invece di guardarmi negli occhi, mi guarda le scarpe. Quindi, caro Matteo, mi stai facendo venire in mente che forse penseranno tutti che magari, no? Un paio di scarpe talmente fuori moda, diranno, ma questa da dove arriva? Dalla Luna? Dovrò cominciare a chiedermi. Però gli psicofarmaci non li prendo ancora. La poesia più o meno funziona allo stesso modo, cioè chi fa poesia e magari lavora anche, diciamo, seriamente in questo senso, viene spesso additato come persona molto fuori da un certo tipo di società. Non per niente uno dei miei testi più conosciuti è l'Ode all'Exotan, dove in buona sostanza si dice che Dino Campana probabilmente con l'Exotan non avrebbe avuto tutte le problematiche che ha avuto e sarebbe stato... Ce la leggi? Sì, aspetta che questa la vado a cercare. Vedo Cristiano che si sta ponendo. Passa anche lui adesso dalla prosa alla poesia. Ode all'Exotan. Forse li avremmo avuti per più tempo. Il Dino Campano, gli altri con quei farmaci. Io, ad esempio, presidente, per entrare già ora nella gloria, ho iniziato con 10 gocce al giorno prima di coricarmi. E intendo di protrarre tutto questo fino a quando non saranno conclamati i tempi di disagio cronico e non sarò riuscito più a trovare un medico ben disposto nel prescrivermelo. Vedi, pure il mio testo in questo modo si modifica. Ero più lento, non fa male, non mi assalano per tranche della notte. Ora questo testo non mi strana. Grazie. Senti, meglio, purtroppo ti dobbiamo lasciare. Continuiamo la nostra così puntata sulla follia. Abbiamo altri matti. Abbiamo altri matti da contattare verso gli inferi. Bene. E beh, a questo punto il prossimo incontro, che sarà la trilogia di Matteo Fantuzzi, perché sarà la terza volta che partecipi a Radio Alma, sarà in concomitanza dell'edizione del tuo nuovo libro. Con piacere, anche se ci vorrà ancora un pochino di tempo. Quanto? Per il lavoro, perché il lavoro sulle fonti è d'accordo, molto però... lungo, magari ci vediamo prima per aggiornarci sullo stato. Bene, e poi magari sul blog, se ci mandi qualche stralcio, qualche, insomma, le tue fonti, se vuoi raccontarci un po' come sta procedendo la creazione del tuo nuovo libro, lo pubblichiamo sul blog, così rimani con noi. Ti ringraziamo. Un grande bacio, ciao Matthew. Ciao. A presto dai matti di Radio Alma. Ciao. Senti Paola, che dici di mettere un po' di musica, così io chiamo il prossimo ospite. Hai voglia di rimettermi Ferris Lorris? Sì. Il primo CD. Scegli tu un brano, perché sono tutti belli, e poi magari vi parlerò di questo personaggio. Così intanto vado a chiamare Antonio Bertoli. Tanto ricordiamo che anche Bravo. Antonio Bertoli è stato all'OFF, ospite con tutta la famiglia. Hanno raccontaci qualcosa, una Giulietta, performance, sì, meravigliosa. Era un Padre Nostro a tre voci. E insomma, vabbè, difficile da spiegare, però proprio la scenografia e il testo, insomma, era molto impressionante. Bene, beh, lo chiediamo a lui poi magari direttamente. Sì, infatti. Ok, allora, avanti con la musica. Ci siamo. Ci siamo. A dopo. La natura si genera di forme, si decompone e ricompone in forma mutabile per reggere alle tempeste a venire. La nostra epoca non fa marcia indietro, aspira al trono futuro come l'Eldorado. Secondo arcano del mondo, arcano di guerra, arguta e squillante tromba all'orecchio, arcano delle nostre notti cadute all'inferno, per sempre in un dolce abbracciarsi di corpi stremati, il buio più oscuro e fitto. Io sono come l'intruso delle pentole, il malfamato ed il guardone di una vita sempre uguale, destinata ad un divino arrangiarsi. In noi infuria la lotta, più di quanta ne infuri nel mondo, folle rettine che si torce la coda senza vergogna. E riluttante, insensato e inconsapevole arcano di lotta verso il diverso, indistinti e feroci sino alla rovina, sino alle alte sfere del patimento. Sono staccate in volo due piccole cornacchie spiumate, mentre attorno il rombo dell'acciaio, più tetro del grigiore terrestre, ronzio e marcia delle vetturine, carcasse di lamiere in sosta, musica. musica d'acciaio nell'età del frastuono. Landa di silenzio sperduta chissà dove, ma questa non è più l'era del glicine, neppure l'era in cui si balli sfrenati sotto la luna piena. Questa è l'epoca del cancro bocca a bocca, dello spreco del marciume onnipotente, cilindro dell'egoismo conforme. Questo è l'arcano delle file mute e del pianto materiale, epoca arcana dello scisma interiore. Cari amici radioascoltatori, benvenuti tornati alla tela sonora 101.9 FM Radio Alma. Quindi per fare un piccolo riassunto della puntata, Cristiano Ferrarese, Matteo Fantuzzi, abbiamo parlato di follia, di pazzia, i matti sono fuori, sono dentro, insomma non è ben chiaro, sia la prosa di Cristiano che la prosa di Matteo, abbiamo un po' toccato alcuni... Poesia. Scusami, cosa ho detto? Prosa di Cristiano e poesia di Matteo. Arriva sull'autobus, attenta. Sì, infatti, abbiamo parlato delle scarpe Tommasoni, abbiamo parlato dei matti che ti guardano. Del concerto. E adesso abbiamo Antonio Bertoli in diretta. Antonio, ci sei? Ci sono. Bentornato a Bruxelles. Grazie mille. Sentivo una voce sovrapposta, non c'è problema? No. Sentiamo, no? Siamo in 15. Siamo in 15 qua in radio, non ti preoccupare. Qui 8 dentro di me. Io sono Giulietta. Io sono... Ciao, Romeo. Ciao. Ciao Romeo, Giulietta Romeo. E io invece sono il diavolo. Tu sei Gesù Bambino, che è la stessa roba. No, io sono Gabriella T. Gabriella T. Confermo col diavolo. Diavoletto, anzi ho le cornina oggi, mi sono messa le cornina con un po' di gel, non ci stanno tanto su. Senti Antonio, ma ti hanno raccontato grandi cose di te, della Farof, cosa hai combinato? Ma quando dici? Ma... Perché ne combino una al giorno. No, aspetta, Farof le combinate quindi tra mercoledì e giovedì, perché eri a Bruxelles, no? Ah, sì. Poi mi dirai... No, non è che ho combinato qualcosa di particolare. Avevo scritto questo Padre Nostro, che è una specie di preghiera, molto, molto laica, chiaramente. Certo. Che è rivolta alla volontà, alla coscienza, eccetera. E mi chiedevo dove è finita la coscienza, dove è finita la volontà. E mi è venuta l'idea di farla con i miei figli, con Margherita e con Giulio, e come dire, l'ho programmata come se fossimo tutti e tre crocifissi e con una specie di corale, una specie di modo performativo di darle, in modo tale che Margherita dicesse le sue cose, Giulio le sue, io le mie, e poi insieme dicevamo altre cose e al pubblico dicevamo altre cose ancora. Questo. Ci vuoi fare... Una cosa molto sana. 30 seconds remaining. Ah, guarda, allora, ti devo richiamare perché... perché la tesserina sta terminando. Come? Ti devo richiamare perché... Ti devo richiamare perché sono il diavolo. Ti devo richiamare. Butta vuoi giù un numero di telefono fisso? Sì, grazie, dammi il numero. Allora, è 055... Aspetta, 055... 8729 Le crédit de votre carte est épuisé. Veuillez vous procurer une nouvelle carte chez votre. C'è. È finita la tesserina. Facciamo. Leggiamo ancora qualcosa. Leggiamo qualcosa. Dai, io dai, te proviamo. Senza tecnologia, dai, senza proviamo. Tramite. Facciamo una bella storia d'amore. Si insomma, può fare la storia d'amore in radio? Romeo, no, Giulietta, mi sembra. No, ma una troppo. Storia d'amore porno si può? Ah, quello fa bene, quello fa sempre bene. Sì. No, si può o non si può? Sì, certamente. Si anzi, può. Si deve. Può. Sì, si può. Si può. Mai provato? In radio? No, si può. L'importante è che mi diciate che si possa. Poi, se si può, io vado, Vediamo, te lo diciamo dopo, allora, se la poni in questi termini. La sua prima volta è stata assai triste e poco poetica. Un cinema porno nei vicoli di Genova. Seduta viene avvicinata da un marinaio già avanti con gli anni, le mette la patta davanti alla bocca. Lei non deve fare altro che abbassarla e cominciare a succhiare il cazzo. Lui la insulta, lei si bagna. Lei si bagna. Lei beve. E lui le ordina di seguirla in bagno. La incula e le viene nuovamente in faccia. Lei non ha goduto, ma ha perso finalmente la verginità e ha pagato 5.000 lire. Era il Natale del 1963 ed era finalmente adulta. 1967. Cristiano Ferrarese. Divertita? Sì. Bene. Però secondo me potresti fare di meglio. Come? Non so. Proviamo a cercare qualcos'altro. Proviamo a cercare. La 76, dai. Che è la seconda parte. Non si può che fare di meglio. No. Uno spirito malvagio mi dice di... Allora, cari amici, siamo di nuovo in diretta, abbiamo Antonio Bertoli. Antonio, ci sei? Sì, ci sono. Perfetto. Allora, questa volta spero che la tesserina funzioni. Stavamo parlando della For Off. Ci vuoi magari leggere qualcosa della tua performance? O se vuoi leggere... Dici del Padre Nostro, perché quello lì è sì, veramente una cosa fatta collettivamente. E allora no, se non vuoi leggere quella, magari qualcos'altro che hai presentato alla For Off, oppure... A meno che tu non ti segni questo. Sì. Ti segni Padre Nostro che sei nei cieli. Sia benedetta la tua volontà. Aspetta che Giulietta sta scrivendo. Sì, vabbè, fino a lì ci arriviamo. E Padre Nostro che sei qui in terra, dov'è finita la tua volontà? Così in cielo come in terra dove è finita la tua volontà. Così in cielo come in terra dove è finita la tua volontà. Ok. Bene, e voi insieme mi fate questa parte qui. Ok. Tutti insieme, però con questo ritmo che vi dico io. Che è così. Sì. Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetta la tua volontà. Padre nostro che sei qui in terra, dove è finita la tua volontà. Così in cielo come in terra, dove è finita la tua volontà. Così. Okay. Giulietta, sei pronta? Più o meno. Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetta la tua volontà. Padre nostro che sei qui in terra, sia benedetta la tua volontà. Dove è finita? E poi il terzo? Anche lui dovrebbe partecipare, sì, è un coro. Ok. Vorrei se ricordasse. E il terzo? In cielo come in terra, dove è finita la tua volontà. Ok. Cominciate, poi tacco io. Ok, allora. Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetta la tua volontà. Ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetta la tua volontà. Padre nostro che sei in terra, dove è finita la tua volontà? Così in cielo come in terra, dove è finita la tua volontà? E all'angolo di una strada sta attaccata ad un giornale, dentro gli occhi un sogno interrotto, le sue mani sono quelle di un morto, sa solo quello che non gli piace, sa solo quello che non ti dice, è vestita come le pare, vestita come le va, vittima artefice del consumo, vittima artefice del potere, non ti dice che cosa le piace, non ti dice che cosa le crede, non ha alcuna possibilità, nessuna probabilità, continua a vivere nell'oblio del volto del padre, nell'oblio del volto che ha. Ah, Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetta la tua volontà, Padre nostro che sei in terra, dove è finita la tua volontà. Sia benedetta la tua volontà, dove è finita la tua volontà, Padre nostro che sei nei cieli, dove è finita la tua volontà, Padre nostro che sei in cielo, dove è finita la tua volontà. E all'interno di una casa stesa sopra un asse da stiro, dentro gli occhi sono interrotto, le sue mani sono quelle di un morto, sa solo quello che non gli piace, sa solo quello che non ti dice, è vestita di strati e di sogni, vestita di voglie e bisogni, vittima artefice del consumo, vittima artefice del potere, non ti dice che cosa le piace, non ti dice che cosa lei crede, non ha alcuna possibilità, nessuna probabilità, continua a vivere nell'oblio del volto del padre, nell'oblio del volto che ha. Ah, Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto, eccetera eccetera. Ok, vabbè. Senti, a me interessa, hai detto una cosa molto importante, dove è finita la tua volontà, ma hai parlato anche di coscienza, cioè. Sì. Ok, perché? Secondo te cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va? Sì. Siamo già al di là della fine da un certo punto di vista, come ho detto in altri versi. Senti, c'è questa specie di essere che che non si sa bene che cosa sia, che è nascosto dentro di noi e che vive dentro di noi, che è la nostra vera essenza. Bene, questo è, come, dice, come si può dire, martoriato, completamente annichilito. Addormentato. Dalle banche, dalla crisi economica, dalla, ma soprattutto, per quanto mi riguarda almeno, dalla, da un certo modo di intendere le cose, la vita, il senso. È annichilito da, dal fatto di andare in un negozio e dire ciao, come, oppure di incontrarsi con la gente, ciao, come stai, va tutto bene, piove, no, insomma, ce l'ho abbastanza bene. E questo è una specie di senso che si è perduto dentro. Benissimo. Questo. Non sono molto, non sono negativo in questo, ma io penso che, si, no. che sia benedetta la volontà. Soprattutto hai detto una cosa, che siamo al di là della fine, quindi a me hanno sempre insegnato che quando si arriva in fondo non si può altro che risalire. C'era un mio amico, si chiama Frick Anthony, nome d'arte, che non sono io chiaramente, mi chiamo Antonio, si chiama Antonio in un'altra maniera, di Bologna, che diceva, tutti dicono che andiamo, quando si casca fin fondo al pozzo, non si può fare altro che risalire. Invece io gratto. Grandioso, io gratto. Allora c'è la volontà di grattare, di andare ancora più sotto? Sì, perché la fine vera non è proprio al di là della fine. È ancora più sotto, dove c'è qualcosa di importante. Ok, a me hanno insegnato anche un altro principio. Adesso magari dirò una banalità. Il principio dell'attrazione. Che noi siamo un po', come dire, gli artefici di quello che abbiamo davanti a noi. La realtà non è altro che uno specchio. E la realtà ci rispecchia quelli che sono i nostri pensieri, quelli che sono i nostri desideri. Quindi, in qualche modo, siamo noi che abbiamo creato tutto questo. Come riappropriarci dei nostri pensieri, dei nostri veri valori, della forza di dire voglio stare bene, voglio avere una vita bella, sana, voglio avere degli amici sani, voglio credere nelle mie idee. Ci credo, vado avanti e voglio costruire qualcosa di bello. Perché abbiamo così paura di dire queste cose? Sono molto convinto di quello che dici, però c'è una trappola in tutto questo che hai detto. Cioè? Perché con la coscienza, che è uno strumento che a livello evolutivo è molto molto recente, certo. Il cefalo, la corteccia cerebrale, è un modo di autoriflettere, cioè noi addirittura riusciamo a pensare a noi stessi, col nostro pensiero, come uno sdoppiamento. Allora lì c'è un rischio molto forte, che è quello di dire vabbè, io voglio questo, voglio quell'altro, voglio avere una vita diversa, voglio fare un mondo nuovo, voglio avere dei rapporti diversi, voglio la mia felicità. E questo lo diciamo con questa parte che chiamiamo la coscienza, giusto per intendersi, che è la parte razionale di noi. No. Quella che almeno riusciamo a... a mettere in circolo, però c'è una parte più profonda. Che è l'emotiva, certo. No, non è nemmeno quella emotiva. Non è quella. L'emozionale è un'altra cosa. La parte ancora più profonda è quel famoso grattare sotto il pozzo, no? Sotto sulla superficie del pozzo. È qualcosa di atavico, sono i bambini interiori che siamo tutti quanti, che sono lasciati liberi o meno di essere quello che volevano, potevano essere, è una storia di una catena infinita di trasmissioni quasi karmiche, e il nostro compito oggi è come se dovessimo scrostare il carbone che riveste il diamante. Noi siamo un diamante e questo diamante deve buttare via tutte queste scorie che c'è intorno per poter risplendere, e quando ci diciamo voglio questa vita è quasi sempre, almeno io lo vedo negli stars che faccio, le situazioni che affronto, eccetera, è quasi una coazione a ripetere, molto inconscia, inconsapevole, è quasi una coazione a ripetere quello che è un destino che è quasi presegnato dalla nostra relazione con i genitori dalla relazione dei nostri genitori con i nostri nonni e via andare. Ok, genetica, però riusciamo a modificarla se noi vogliamo? Ma certo. Ok, allora si tratta di scrostare, come dici te, il carbone intorno al diamante. Ciò che conta però è focalizzarsi sul fatto che noi siamo un diamante, non pensare a noi come al carbone. Allora, ben venga grattare, come dice il tuo amico Antonio, grattiamola sta superficie falsa, sta maschera che ci siamo messi tutti addosso, grattiamola, andiamo oltre, ma per costruire, cioè per andare a cercare il diamante che è in noi. Noi siamo già quel diamante. Ok, dobbiamo semplicemente togliere la crosta che c'è sopra. Sai, è una crosta tosta, perché è fatta di condizionamenti molto molto forti. Stai contro un bambino che gli hanno sempre detto, giusto per fare un esempio, una bambina che gli hanno sempre detto che non conta, che non vale, che non è importante, eccetera, sì. Ma cercarsi necessariamente le condizioni, chiaro, le situazioni per autodimostrarsi che non vale. È vero. E certo, quindi pensa un po', allora, un grande richiamo ai genitori, a coloro che hanno bambini, cari amici radioascoltatori, fate in modo che i vostri bambini siano un po' frecce del vostro arco, cercate di tirare al massimo la corda del vostro arco per lanciare la freccia il più lontano possibile, e sia quindi una benedizione per i vostri bimbi. Quindi non stancatevi mai di incitarli, di invogliarli ad andare avanti, a studiare, a leggere, a fare, magari a fare poesia anche, una come ha fatto Antonio Berto. Una poesia. Bene Antonio, che dirti? Che io ti terrei qua in diretta 3 ore, 4 ore. Sì. Mi vuoi leggere un passaggio di... Perché io ho parlato del tuo libro bellissimo, del Territori del Cuore, no? E soprattutto della differenza del perché il cervo maschio se muore perché ha un infarto. Giusto? Anche gli uomini, eh? Ecco, e infatti è l'uomo. La differenza quindi sostanziale che c'è fra una donna e l'uomo è proprio questo, che l'uomo è sempre alla ricerca di un territorio. Quindi, care fanciulle, quando cercate di capire i vostri uomini, perché anche i loro comportamenti un po' strani, è perché sono alla ricerca del loro territorio. Anche cosa che noi... ma noi abbiamo un territorio diverso, più interiore, più femminile, se noi esteriore. E se noi maschi risolviamo i nostri problemi di territori o di perdita di territori, certo, per meglio dire, sul cuore, uh-huh, a livello di organo, sì, le donne risolvono i loro problemi di territorio sul collo dell'utero. Infatti, va bene, te la concedo, visto che stasera ormai ci siamo detti tutto, ti concediamo anche questa. Senti caro Antoniuccio, non so se Cristiano così, dopo l'ultima lettura, un'illuminazione, vuol farti una domanda. Tu l'hai mai conosciuto Antonio? No, conosco perché è stato il fondatore, almeno mi sembra di ricordare, della City Light, la versione italiana praticamente della City Light. Di, è preparato ragazzo? Di Ferlinghetti e compagni. Non gli avevo detto niente? E quindi... No, mi è interessato questo Padre Nostro laico, molto probabilmente scriviamo in modi diversi delle stesse cose, non so se bene o male, però ne scriviamo, ed è già abbastanza o no? Sì, direi proprio di sì. Sai, dice che, cioè, c'è un detto che ci dice che gli uomini e le donne, chiaramente, belli e belle, si disconoscono al volo e gli altri non si riconoscono per niente. Fatto. Allora è un privilegio. Allora è un privilegio averti in radio, perché ci siamo riconosciuti. No, ci siamo disconosciuti. No, io l'ho conosciuto. Parla per te, Cristiano. Abbiamo parlato del nostro diamante. Ecco, finalmente. Quelli lì li riconosciamo in tutti. Perfetto. Ok, d'accordo, te lo concedo, grazie. Mi dicevi, scusami, sul libro... Una poesia. Sì, una poesia, leggici una poesia, dai. Dal libro o vuoi una poesia completamente inedita? Una poesia inedita. Inedita? Sì, detta dal cuore, per noi. Facciamo, come ti chiami, come si chiama lui che sta parlando? Cristiano. Un nome impegnativo. Ferrarese in più. Pensa un po' mia mamma. No, è davvero impegnativo, perché Cristiano è Cristo, è il sacrificio. Prima di essere crocifisso. Il sacrificio dell'uomo all'interno dell'albero genealogico. Che culo. Per salvare tutti quanti gli uomini, vale a dire la tua genealogia maschile, è un compito molto forte. Vabbè, lasciamo perdere. Bravo. Prima che dici una cosa, io non voglio salvare nessuno, guarda, non so, sinceramente, come diceva Carmelo Bene, aspiro a disimparare. Esatto, però ce la buttano addosso. Ma sì, dai, basta spostarci, casca per terra. Sì, infatti. Dai, ultima poesia. Allora, questa è poesiola, si chiama Ode alla poesia, giusto? Sai, un classico. Vai. Te la leggo? Sì. Parto? Vai. Dunque, agitandosi senza sosta e sempre muovendosi, facendo sempre inseguendo qualcosa che è di più ma anche di meno, mangiando, pensando, sentendo, amando, creando, una vita intera come fuoco che brucia legna nell'aria, libera faville, riflessi, calore, luce e fumo, una vita intensa che poi sarà solo cenere e ricordo. sorride ironico e divertito l'asino del tempo, raglia. L'intelligenza sembra quasi un cane alla catena, il cuore insiste a dire che non c'è niente da capire, che la vita semplicemente scorre col sangue nelle vene, senza anelidi, senza rimpianti, né primavere né inverni. E sono solo una cellula, io, di un organismo ignoto che pretende tutto ma nulla può. Lazzaro si risveglierà ancora una volta dalla vita. E dopo morte, rinascita e morte, c'è ancora una rinascita, c'è ancora una vita dopo questa vita. Ma forse ci siamo dimenticati del processo, l'appartenenza, vittime del prodotto, del consumo, del particolare. Abbiamo forse obliato la magia della serie? Di sodare, arare, seminare, raccogliere, il pesce nella rete dopo l'alba, il mare, il tramonto, aratro, merli, semi, ghiandaie, passeri, farina e pane, raccogliere l'autunno, mangiare l'inverno, seminare il mare, di sodare un tramonto, arare un pesce, bersi un passero, seminare ghiandaie, inghiottire l'alba, fumarsi una rete. Ma questo pane che mangio oggi è solo pane. Ha obbliato la terra, il grano, la farina, il fornaio, la merce sono merce, l'opera è stata dimenticata, l'analogia è stata sepolta dalle cause e dagli effetti. Solo la poesia sopravvive come un demone a creare processi, serie e corrispondenze di opposti. L'alchimia della parola è l'alchimia della vita. Hermes e Afrodite si fondono nell'ermafrodito e io sono tutto allora, tutto me, per tutto il tempo e in un istante. La creazione fu la poesia di un demone, l'atto primigenio che ha dato origine alla luce col verbo. Non c'è poesia senza miracolo rinnovato. Non c'è guarigione né miracolo, né poesia senza un atto. I versi risuonano in un vuoto infinito che si riempie di te. Sono la voce del demone che sei, ti turba, ti mangia, ti fa riflettere e godere. Vivi adesso, vivrà per sempre. Perché la poesia è il demone dell'analogia. E quindi, tutto quello che va dato io ve lo offro. Catene e libertà, gioia e dolore, pane e acqua, castagne e vino. Grazie Antonio. Prego. Sono perfettamente d'accordo con le tue parole. E con queste parole chiudiamo qui, ragazzi, perché questa sera è stata molto, molto chargée, come si dice, la nostra emissione Tela Sonora. Ringraziamo Cristiano Ferrarese, ringraziamo Giulietta, Paola in regia, Martina che è stata comunque qui con noi. Ringraziamo Antonio, ringraziamo Matteo Fantuzzi, ringraziamo Lucio Pacifico, ringraziamo Ferris Loris e i Martiria per la musica che gentilmente